Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera ad Antonio Calabrò. Buonasera a voi. Antonio Calabrò è direttore della Fondazione Pirelli, consigliere delegato della presidenza di Asso Lombarda per la responsabilità sociale d'impresa e ha curato e scritto l'introduzione per questo libro, Fabbrica di Carta, i libri che raccontano l'Italia industriale, edito da La Terza. È un libro curato da Giorgio Bigatti e Giuseppe Lupo che costituisce un po' un'antologia degli scritti che riguardano non tanto l'economia, non tanto l'industria, quanto proprio la fabbrica. Ecco, Calabrò, com'è venuta l'idea di fare un libro che parlasse della fabbrica? L'idea è nata ad Alberto Lamartini, che era presidente di Asso Lombarda, a me e alla presidenza di Asso Lombarda, per valorizzare una caratteristica molto italiana. Noi siamo un paese industriale, siamo il secondo grande paese manifatturiero europeo e c'è un racconto di questa dimensione, storico, gli ultimi 50 anni, ma anche abbastanza d'attualità. Sulla fabbrica sono cimentati i grandi scrittori che raccogliamo in questa antologia. Faccio soltanto alcuni nomi: Mastronardi e Giudice, Ottiero Ottieri, Leonardo Sisgalli, Franco Fortini, Nanni Balestrini, Elio Vittorini e poi ancora Luciano Bianciardi, per arrivare a Carlo Emilio Gadda, Italo Calvino, Primo Levi e molti altri. E hanno raccontato gli uomini e le macchine, i processi di lavoro, le tensioni, anche i conflitti, in alcune pagine della grande letteratura italiana che non sono, da qualche tempo a questa parte, particolarmente conosciute. Abbiamo voluto colmare un vuoto e di conoscenza, di cultura, ma anche di consapevolezza delle nostre qualità. Ecco, di conoscenza, perché queste pagine forse possono sfuggire, si pensa alla letteratura come qualcosa magari di un po' distaccato dalla società reale, dalla società concreta, con tutti i problemi molto forti che ci sono, soprattutto sul fronte proprio della vita economica, della vita all'interno delle imprese. Su questo fronte aiuta questo libro anche a capire, a fare un percorso che è poi lo sviluppo della cultura italiana di questi anni, una cultura molto legata la società. Naturalmente sì, guarda, negli anni 50 e 60 la letteratura, il cinema, la fotografia e anche altre attività, la scultura e la pittura, si confrontavano col mondo del lavoro. Poi c'è stato uno iato e il mondo del lavoro è stato rappresentato soprattutto dal punto di vista del conflitto sociale. Adesso si ritorna a pensare ai luoghi di lavoro e ai processi industriali. Noi abbiamo voluto cogliere quello che si è scritto sulla fabbrica, anche dare senso del vuoto, del motivo del vuoto, e indicare una prospettiva. Ci sono studi recenti, anche negli Stati Uniti, che dicono che la manifattura torna al centro dei processi di sviluppo di qualità. E la letteratura, la cultura devono fare i conti con questa dimensione. Ecco, la tua introduzione si intitola Il racconto della tradizione aiuta il rinascimento manifatturiero. Proprio in questo senso bisogna forse riportare anche attraverso la letteratura a far capire che l'impresa, che la fabbrica sono qualcosa di reale, di costruttivo, di importante, di decisivo all'interno della società. E molto spesso invece in Italia l'impresa è un po' vista come un male necessario, mal sopportata. Io chiederei ai nostri ascoltatori di riflettere su una domanda: chi produce la ricchezza che poi bisognerà distribuire? Perché se non andiamo a questo nodo non capiamo niente. La ricchezza si produce nelle imprese e le imprese non sono l'imprenditore, il padrone, le imprese sono un insieme di uomini e donne, persone che investono soldi, che mettono competenze, che lavorano, che innovano, che fanno ricerca, che rischiano. L'impresa è una struttura molto complessa e molto vitale. La buona letteratura, Calvino, Gadda, Vittorini, Sisgalli, questa cosa hanno raccontata. Sisgalli parlava di civiltà delle macchine, la civiltà degli uomini. Le macchine sono per certi versi delle strutture senza coscienza. L'insieme della mano dell'uomo, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione costruiscono lo sviluppo. Da questo punto di vista, rinascimento manifatturiero, che è un'espressione di una ricerca americana, si attaglia benissimo alla situazione italiana. Il rinascimento è una cosa che sta nelle nostre corde. La grande cultura italiana, penso a Leonardo, è una cultura insieme del pensare e del fare, del costruire e del rappresentare. fabbrica di carta più o meno vuole dare conto di questa tensione. Ecco, infatti anche nella tua introduzione scrivi che scrivere di industria è dunque scrivere di complessità e di conflitti, ma proprio di conflitti, ci ha insegnato uno storico liberale come Ralph Dahrendorf, è intessuta la sua età industriale. Ma poco più avanti, sono appunto i conflitti da comprendere e superare, nuove sintesi a fare da molla all'innovazione del cambiamento. Una letteratura di fabbrica negli anni 50 e nei nostri stessi tempi di controversa contemporaneità non può che essere una letteratura di conflitti, ma poi dici anche conflitti che sono da analizzare, da superare e da trasformare in dialettica. Quindi il conflitto è una realtà all'interno della fabbrica, delle imprese, ci può essere e ci deve essere il conflitto, ma se si trasforma poi in dialettica, in confronto, diventa anche costruttivo ed aiuta a superare questi temi. Forse uno dei problemi italiani è quello di aver esaltato il conflitto in quanto tale. Esattamente, invece ma rileggendo anche i classici del pensiero liberale, rileggendo Marx e Gramsci, individuo nelle società democratiche un nodo del conflitto. Il conflitto è verifica di interessi diversi, anche di idee diverse, di tensioni diverse, e tentativo di trovare delle sintesi. Il mondo del lavoro da questo punto di vista è esemplare. I momenti migliori della storia italiana sono stati segnati da conflitti tra le parti sociali e da grandi accordi tra le parti sociali. Penso al conflitto e penso all'accordo e penso a cose che si pongono. Lo stesso pensiero è un elemento conflittuale, un'idea nuova scardina idee precedenti. Il conflitto sta nel mondo delle idee e nelle idee c'è la soluzione dei conflitti. È quello che si chiama democrazia liberale, né più e né meno. Ecco, in questa tutto questo applicato al mondo del lavoro significa anche fare delle cose, scoprire se il mercato, i consumatori le accettano, farne di migliori e aprire in continuazione frontiere. Una nuova frontiera è la soluzione di un conflitto. Ecco, in questa prospettiva il libro serve anche per guardare avanti, si guarda la letteratura ma si guarda anche alle basi appunto su cui è costruita la società italiana, guardando avanti la rivalutazione appunto dell'impresa, la rivalutazione della fabbrica è forse, come dicevi peraltro anche prima, uno degli elementi cardine per cercare di far riprendere, di dare una ripresa economica a questo paese che ha bisogno di ripresa, ha bisogno di creare posti di lavoro, ha bisogno di ritornare a vedere nell'impresa qualcosa che produce veramente ricchezza. Allora, guardando in avanti, quali possono essere le prospettive anche culturali per l'impresa, per portare la realtà propria, la forza e la ricchezza soprattutto dell'impresa all'interno della cultura italiana? Quando Calvino, Vittorini, Galla, Sinisgalli raccontavano l'impresa industriale italiana agli anni 50 erano assolutamente contemporanei e coglievano un forte elemento di innovazione in un paese che da contadino povero e provinciale diventava invece europeo, industriale e aperto al benessere. Io credo che questa sia la sfida sia culturale che imprenditoriale, che politica naturalmente, che l'Italia di oggi si trova ad affrontare. Lo sviluppo, a mio parere, a parere per fortuna di una ampia schiera di imprenditori e studiosi, si lega attorno all'impresa industriale. L'impresa industriale è il nucleo dello sviluppo possibile con tutto quello che attorno all'industria si va legando, la ricerca, l'innovazione, l'università, i servizi, la logistica, ma anche i nuovi linguaggi della produzione, del marketing e della comunicazione e così via di questo passo. C'è un mondo in movimento che gira intorno all'impresa industriale. Con questo libro abbiamo voluto dire che l'Italia ha avuto delle eccellenze nell'impresa industriale e nella letteratura che la raccontava e che questa dimensione è assolutamente contemporanea. Il futuro italiano è legato alla sua capacità di manifattura e merita un grande racconto. Ecco, qualche anno fa, se non sbaglio, tu hai scritto un libro che si intitolava Orgoglio industriale. Esatto. Ecco, che era scritto appunto nei primi anni della crisi anche per stimolare in fondo l'industria italiana e per far capire che l'industria italiana è fatta anche di tanti elementi di eccellenza, che spesso noi guardiamo alle medie e le medie nascondono gli elementi di eccellenza e magari nascondono anche certi elementi di crisi, ma sugli elementi di eccellenza si può ancora puntare. A quando un nuovo capitolo o un nuovo libro dedicato all'orgoglio industriale? Dopo Orgoglio industriale, con Nanni Beccalli Falco, che è un grande manager internazionale di General Electric, abbiamo scritto Il riscatto, che è un libro costruito sugli investimenti internazionali nel settore industriale italiano. A quando non lo so, però ci siamo occupati di fabbrica di carta. Io credo che, oltre che scrivere libri, attività essenziale, peraltro molto divertente, sarebbe necessario che l'attenzione dell'opinione pubblica e del paese si concentrasse sulle leve positive del nostro sistema. Abbiamo una grande crisi in corso e ci sono imprese che chiudono ogni giorno, purtroppo, competenze, lavoro, ma anche vite delle persone che vengono ferite. E però, se guardo i dati dell'economia italiana e il loro complesso, vedo per esempio che l'export italiano regge e cresce proprio nei settori di eccellenza: l'automazione meccanica, la meccatronica, l'alimentare, l'arredamento, l'abbigliamento e così via di questo passo, le eccellenze delle 4A dell'industria italiana. Io credo che con tutta la fatica queste dimensioni positive siano ancora in piedi. Quando il Presidente del Consiglio Enrico Letta dice di valorizzare le qualità italiane, pensa esattamente a queste dimensioni su cui bisogna insistere. Allora riforme, allora interventi per consentire all'impresa industriale di fare il suo mestiere, costruire ricchezza, dare lavoro e raccontarla. Grazie, grazie a Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, consigliere delegato di Assolombarda per la legalità e la responsabilità sociale dell'impresa. Grazie anche per questo messaggio positivo con cui guardare appunto alle prospettive di un'economia italiana che è certamente complessa. Abbiamo parlato del libro Fabbrica di Carta, i libri che raccontano l'Italia industriale, un'antologia in fondo degli ultimi 60 anni con gli scrittori italiani che hanno parlato delle fabbriche, delle imprese, della realtà produttiva. La prefazione di Alberto Meo Martini e l'introduzione appunto di Antonio Calabro, che è stato con noi. Il libro è stato curato da Giorgio Bigatti e Giuseppe Lupo ed edito dalla Terza. Grazie, buona serata a tutti.